l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, bruxellando, 15 dicembre, martedì, ora è 21 e siamo tutti ebri di allegria perché finalmente è Natale e siamo tutti lì a fare il countdown, chi un po' prima, chi un po' dopo, chi vorrebbe già essere partito, chi invece partirà solo tra qualche giorno. Comunque è una bellissima atmosfera natalizia, anche perché fa freddo ma non piove, il che insomma è sempre bello. E insomma tutto fa annunciare una bellissima serata in nostra compagnia. Saluto tutti quanti, qui con me questa sera, Daniele in regia. Buonasera a tutti. Georges Laurent. Eccomi. È la nostra Fiordaliso. Salutiamo anche Stefano e Paolo che ci hanno preceduto. Ragazzi, come al solito fate un lavoro davvero egregio e noi vi ascoltiamo con immenso piacere. Eh sì, proprio un lavoro fuori dal gregge. Un lavoro fuori dal gregge. La parola egregio viene proprio da ex gregge, fuori dal gregge. Bravissimo. Giorgio, quanto ne sai, ragazzi? Ma lui qualcuno. è il nostro Bruxellandopedia, quindi insomma per piacere. Mi raccomando, perché la fantasia e soprattutto l'iniziativa, la capacità di essere creativi non deve venir meno, soprattutto in questi tempi così avari di idee brillanti. Sì, sì, è veramente un periodo avaro di idee brillanti. Diciamo che però qui a Bruxellando ne passano di cose interessanti, quindi è un momento di ricarica energetica creativa. Siamo alla fine dell'anno, un anno volge al termine, insomma noi anche di Bruxellando abbiamo avuto modo, piacere di ospitare tanti ospiti. Bruxellando poi nel tempo è mutata e per il 2010, come già avevamo annunciato, ci saranno due belle novità, una che prenderà proprio, vedrà insomma la luce il prossimo 19 gennaio e tutte... Bingo! Sì, ebbene sì, questa insomma è un po' la notizia in anteprima. Dedicheremo una volta al mese, speriamo di poter mantenere un appuntamento fisso il terzo martedì del mese con la penna del diplomatico. Era un esperimento che avevamo già lanciato lo scorso anno e ci auspichiamo di poter mantenere questo appuntamento che tanto era stato gradito da qui e fino a luglio, agosto, quelle che poi saranno le puntate di Bruxellando. Proprio grazie attraverso alcuni amici siamo già in contatto con molti diplomatici, con la passione e la voglia della scrittura. Ci sono tante storie quindi che attendono di essere lette e la prima vi anticipo semplicemente che è dedicata alle truffe e a quanti ovviamente sono stati resi celebri per un motivo o per un altro, proprio per la loro estrema fantasia, e qui ritornano le idee brillanti in un modo o in un altro, ma questo ne parleremo il prossimo 19 gennaio con Domenico Vecchioni. Beh, mi fa venire in mente un bellissimo film che abbiamo visto, Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, beh, il mitico Abbagnale, insomma, lui effettivamente è uno di quelli di cui poi avremo modo di ascoltare e leggere proprio da, da Domenico. Sì, una grandissima creatività, perché poi alla fine è andato a lavorare per l'FBI. Un'intelligenza che poi alla fine viene... Dai, Giorgio, hai svelato la storia, come va a finire la storia del film. Lui vuole mettere alla prova il nostro udito questa sera. Ah, ecco. Questa è, siccome c'è una campagna di sensibilizzazione sui cinque sensi, lui inizia dall'udito. Ragazzi, quando arrivate al fatto poi state buoni. E lì, insomma, non voglio sapere nulla. Quello che volevo dire però di questo Abbagnale è che in effetti lui fa il truffatore, ma fa anche il pilota d'aereo, e almeno così si capisce dal film. No, il pilota d'aereo diventa davvero. No, fa anche l'avvocato, diventa veramente avvocato superando l'esame di Stato. È incredibile, cioè, falsifica tutto e riesce in effetti l'esame d'avvocato è l'unico che ha studiato. E ricordiamo che Abbagnale non è quello che ha vinto il 2 con alle Olimpiadi di Seul. No, questa è un'altra storia e non parliamo di truffe, ma parliamo di sport, parliamo di altro, quindi insomma la lascerei da parte. Invece un altro angolo, che pure ci caratterizzerà una volta al mese, sarà invece dedicato alle parole urbane. È un tema che è nato così per caso qualche giorno fa mentre parlavamo con vari amici e colleghi, e l'idea è quella di raccontarvi di leggende metropolitane. Se siano poi leggende oppure no, insomma, questo troverà... Ma quali leggende? Guarda che i coccodrilli a New York nel Fogne ci sono davvero. Ma questo poi vedremo. Intanto noi vogliamo parlare di parole urbane, vogliamo raccontare magari il grigiore per alcuni, i colori per altri, di quelle che sono le grandi metropoli. Cominceremo da Bruxelles e questa avventura invece comincerà martedì 26 gennaio. Quindi queste sono le novità che ci attendono, in modo da rendere un attimo più divertenti anche le sezioni di Bruxellando. Invece, per parlare di novità, io ho qui tra le mani un libro scritto da Luca Cozzani, che è stato già nostro ospite lo scorso anno, forse due anni fa, perché all'epoca aveva scritto Il macellaio dalle mani di seta. Lo scorso anno. Beh, Luca ha scritto nuovamente, il titolo è Ti basterà morire, edito da, se non sbaglio, Il Filo, se la memoria non mi inganna. Sì, Il Filo. Edito da Il Filo, e effettivamente il racconto è molto interessante. Avremo tra poco Albatros, Il Filo, esatto. Avremo tra poco Luca al telefono, e sono 124 pagine da leggere tutte in un fiato. E magari Luca poi ci svelerà alcuni dei segreti che si trovano in Ti basterà morire. Io vi posso semplicemente dire che sono rimasta effettivamente entusiasta. Questo non lo dico perché poi ho avuto anche il piacere di conoscere Luca, ma perché trovo che anche rispetto al macellaio dalle mani di seta emerga la figura di Luca davvero come uno scrittore maturo, molto più saggio e posato nelle parole, con uno stile e una narrativa sicuramente di alto livello. In alcuni versi, preferisco dirlo qui perché poi magari Luca potrebbe emozionarsi, già glielo ho scritto via mail, ho trovato delle forti affinità con la scrittura di Ken Follett, e per altri invece quella che è la carica suggestiva di Paul Auster. Quindi io invito tutti coloro i quali amano Follett e Paul Auster, questi due straordinari scrittori, a leggere anche Ti basterà morire di Luca, perché vi assicuro che non resterete delusi, anzi poi avremo modo di ascoltare tra qualche minuto poi quelle che sono magari retroscena o le chicche che riguardano la trama narrativa e lo sviluppo dei personaggi. Insomma, caro Luca, a tra poco. Che bello. Fa male quando è sincero, salvami, dimmi almeno che non è vero, guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu. Cari amiche e cari amici, bentrovati, Bruxellando, Radio Alma 101.9. Luca! Pronto? Sì, pronto! Oh, benvenuto, bentrovato, come stai? Benissimo, voi? Noi tutto bene, veramente tutti in super forma e non vedevamo l'ora di parlare con te. Ah, ma che bello! Luca, un saluto anche da Georges Laurent, che purtroppo mi rammarico, lo dico anche in radio, di non aver potuto partecipare alla prima, alla presentazione del tuo libro, però lo dichiaro pubblicamente, ho avuto un problema, non sono potuto venire, però me ne rammarico sinceramente. Dai, non c'è problema, ma comunque ci sarà una vera presentazione a fine gennaio alla Piola Libri, è una data che dobbiamo ancora fissare. E quindi molto sarà bene. Occasione ancora. Ci sarò di sicuro. Allora, come mai? Allora, tu sei alla tua seconda pubblicazione, quindi al secondo romanzo. Sì. Il primo era stato Il macellaio dalle mani di seta, a Bruxellando già l'avevamo presentato circa un anno fa, ora ci ritroviamo nuovamente con un secondo romanzo e sempre nuovamente parli di thriller, parli di finanza, e questa volta il titolo è Ti basterà morire. Certo. Qual è la trama narrativa? Ma la trama narrativa è una storia un po' particolare rispetto al primo libro, che era un giallo forse più elaborato. Questa è una storia un po' più fantasiosa, che parte da un programma di prima serata molto popolare su Rai 1, che è Porta a Porta, e succede che un imprenditore invitato appunto a questo programma, insomma, lo possiamo dire, credo, finisce per suicidarsi in diretta televisiva di fronte a, direi, lo definirei un magnate della finanza che aveva comprato qualche anno prima la sua azienda, salvo poi smantellarla, insomma, venderla pezzo per pezzo. E quindi c'è questo suicidio e chiaramente poi la trama si sviluppa intorno a questo primo evento, e si deve capire per quale ragione la persona appunto si è suicidata in diretta televisiva. E il magnate appunto in questione, sentendosi responsabile della morte di questo imprenditore, comincia insomma un iter che lo porterà poi a cercare di scoprire cosa c'è dietro questa storia. Beh, il magnate effettivamente, guarda, se l'hai pensato perché conosci qualcuno come lui, ti saremmo grate, noi pubblico femminile, di presentarcelo, perché reputo che Adrian Zeta effettivamente sia qualcuno da conoscere, che se ne dica, perché allora andiamo con, insomma, procediamo con ordine, perché poi sai, quando si legge molto spesso poi le emozioni possono insomma avere la meglio. Allora, premetto che a me è piaciuto tantissimo. Grazie. Mi è piaciuto lo stile, mi è piaciuto anche, mi sono piaciuti un po' tutti i protagonisti, soprattutto poi la costruzione stessa della trama narrativa, perché trovo che sia stata effettivamente non solo ben pensata, anche ben raccontata, e c'è poi uno stile molto veloce, insomma, che poi riassume secondo me egregiamente poi anche quello che è l'andante della storia. E ti dirò di più, pure le due protagoniste femminili finalmente credo che trovino un posto effettivamente importante, perché non sono solo donne belle e affascinanti, così come almeno tu le descrivi, ma anche delle professioniste affermate che riusciranno effettivamente a sostenere Adrian nella ricerca della verità e dei colpevoli, senza insomma andare oltre. E come mai la finanza e come mai questo intreccio col thriller? Ma la finanza, insomma, quello è un po' il filo conduttore dei libri, anche nel primo si parlava di finanza. Qui la finanza è un argomento toccato senza andare troppo nei dettagli, visto che il mio lavoro appunto è stato per quello che poi ho finito per toccare di nuovo questo tipo d'argomento. Questa volta ho cercato di farlo senza andare troppo nei dettagli tecnici e appunto cercando di sfiorarlo semplicemente, l'argomento. È un argomento che conosco perché poi fa parte del mio lavoro. No, è vero quel che dici, Luca, però c'è un pezzo che mi sembra interessante. Quando dici no, non voglio spiegare nulla, non dicono, adesso lo leggo. Hai mai sentito parlare di stock options? La ragazza scosse la testa. Una società quotata in borsa compra sul mercato le proprie azioni, offrendo ai propri dirigenti un'opzione d'acquisto a un prezzo determinato, da esercitare entro un certo limite di tempo. Ma se al momento di esercitare l'opzione d'acquisto il valore dell'azione è salito, il guadagno è per il dirigente. Chiaramente questo lo motiva a incrementare i profitti dell'azienda, cosicché anche il valore del titolo salga, il che è positivo per tutti. Ma questo nel migliore dei casi. Ma qualche dirigente poco scrupoloso potrebbe essere tentato di truccare i bilanci per far cadere il valore dell'azione e attribuirsi opzioni al prezzo più basso possibile, salvo poi raddrizzare la situazione, esercitare le opzioni e realizzare un ingente guadagno. Ma non capisco. E tutto questo che c'entra con Snow Plus? Chiese la ragazza, che nel frattempo si era persa nelle spiegazioni troppo tecniche. Le azioni di Snow Plus sono scese a 15 euro dopo la pubblicazione degli ultimi bilanci e il licenziamento di tutta quella gente. La società stessa ne ha comprati 1 milione sul mercato. Dopo l'annuncio della riorganizzazione delle attività e dei risparmi legati al trasferimento di alcuni siti di produzione in Polonia, il prezzo di quelle stesse azioni risalirà al valore normale, come minimo 180 euro. Il guadagno globale dei dirigenti che eserciteranno le opzioni sarà di 165 milioni. Mi sono spiegato? Beh, come vedi, il nostro George ha letto molto bene. Ha saputo trovare anche magari una delle poche descrizioni tecniche che poi giustificano quelle che sono le varie vicende. Dai, lo vedo soddisfatto. È bellissimo. Poi spiega le stock options veramente, da un'impronta, mi piace, come quegli artisti che fanno i ritratti al volo. 2 secondi di gessetto, ecco, il ritratto c'è. Ecco, questa è la stessa cosa, stock options. Sì, perché non è semplice spiegarlo in due parole. No, invece hai trovato, veramente, grazie. Ci ho messo un po' per Beh, fare ci credo. Che sia stato un lungo lavoro. Ci credo. Chi sono i tuoi punti di riferimento mentre scrivi? Ma guarda, sinceramente non so. Io leggo tanti gialli, un po' di tutti i tipi, sia quelli americani che italiani. Ultimamente ho letto anche dei gialli francesi. E quindi probabilmente poi quando scrivo mi ispiro a tutti questi qua insieme, senza avere probabilmente un modello fisso in particolare. Beh, comunque, come ti avevo già accennato via email, trovo che ci sia un non so che di follet e non so che anche di poloster, e questo te lo dico veramente sinceramente, senza... Grazie. Poi sono due dei miei autori preferiti, quindi li leggo sempre con estremo piacere. E durante... quanto ci è voluto per scriverlo? Ma molto meno tempo del primo. Ah, quindi è stato un parto meno faticoso. Un paio d'anni. E poi ho cercato di applicare un po' più ferocemente le tecniche di scrittura che poi le persone che avevano corretto il primo libro mi avevano insegnato. E è venuta fuori una cosa molto più sintetica, molto più rapida, forse anche più fluida e forse anche più leggera, e che mi ha preso, insomma, credo circa un mese comunque per scrivere diciamo l'essenziale. Poi il resto sono state correzioni e rifiniture varie. E qual è stato l'elemento che ha dato via l'ispirazione? Cioè, avrai letto una notizia, un qualcosa che ti ha detto ecco qui il click che poi ti ha permesso di cominciare a scrivere, perché un mese tutto sommato è davvero un breve periodo. Ma probabilmente guardando l'ennesima puntata di Porta a Porta, io sono rimasto a un certo punto folgorato guardando Bruno Vespa, e difatti nel primo capitolo poi credo che si volesse veramente descrivere, me lo immaginavo proprio lui che presentava il programma con questo interesse morboso a volte per le vicende anche personali delle persone, quando c'è un omicidio irrisolto lui ti presenta il plastico della casa, e mi sono detto devo fare assolutamente qualcosa, un omicidio, un suicidio a Porta a Porta. Beh, lui ne sarebbe stato entusiasta, credo. Adesso sì, vorrei mettermi in contatto con Bruno Vespa, appunto, per... Inviare una copia alla Rai autografata, magari sa... Per fargli leggere questa cosa. Infatti lo definisci così. Il conduttore, elegantissimo nel suo completo canna di fucile, congiunse le mani sul petto e gli chiese a bruciapelo: ci sono novità nell'inchiesta sulla morte del suo padre adottivo? Bellissima. Questo riassume poi effettivamente... Ha riassunto bene. Attenzione che poi Bruno Vespa farà il plastico con i Playmobil, No, esatto. E c'è qualche episodio magari più divertente, magari un aneddoto che vorresti raccontare ai nostri ascoltatori che si è verificato durante la stesura del tuo libro? Ma aneddoti particolari, no, sinceramente non ci sono stati. C'è stato un aneddoto più a titolo privato che vorrei citare, nel senso che mentre io scrivevo poi questo libro, mia figlia che ha 10 anni, forse ispirata dal vedermi scrivere, si è messa a scrivere anche lei delle storie, e poi è uscita fuori con una poesia sull'ambiente che ha scritto in francese, poche righe di getto, tutto in rima, e che mi è piaciuta talmente tanto che poi abbiamo inserito addirittura alla fine, alla no? fine del libro nei ringraziamenti, sì. Proprio perché appunto ci piaceva molto, l'editore ha accettato di farlo, pur non capendo probabilmente tutto il senso della poesia, e appunto mi è sembrata una cosa curiosa da raccontare. Però non c'è solo thriller, non c'è solo tecnica finanziaria, ma c'è anche qualcosa di interessante. Quando Terry Al-Saadi aveva accettato di lavorare per lui, non avrebbe mai immaginato di finire col trovarsi all'interno di quell'elicottero che la stava conducendo chissà dove, in compagnia di due energumeni mai visti prima. Questioni di sicurezza, le avevano detto i due palestrati dai bicipiti extra large, che ora non riuscivano a staccarle gli occhi di dosso. Gli ultimi 3 bottoni della sua gonna erano slacciati, le gambe scoperte fino all'inguine. I suoi compagnatori decisero che era uno schianto, anche se non più giovanissima. Si dimostrava una 40 anni, ma la maturità la rendeva ancora più attraente, minuta, di una bellezza mozzafiato, capelli nerissimi, pelle ambrata e taglio degli occhi che le dava un aspetto esotico. Forse marocchina, pensò una delle guardie del corpo di Adrian Z, difficile dirlo dall'accento. O forse un miscuglio di razze, e se no come spiegare quegli incredibili occhi blu che a malincuore le avevano coperto. E beh, questa è una delle due protagoniste che aiuterà Adrian nel risolvere poi, insomma, la trama di eventi che lo rendono protagonista. Luca, c'è invece qualcuno a cui vorresti inviare i tuoi saluti oppure ringraziare a compimento del tuo secondo romanzo? Ma sì, poi ci sono diverse persone, insomma, che mi hanno consigliato, che mi hanno aiutato a correggere il libro. Anche se devo dire, poi alla fine uno si sente molto molto molto solo nell'operazione, e questa è una cosa che forse mi dispiace dire un po'. Insomma, queste il rapporto con queste case editrici poi non è, resta sempre abbastanza superficiale. Mi piacerebbe trovare un giorno una casa, magari anche un po' più importante, che mi assista, che promuova il libro in modo più massiccio. Beh, proviamo a lanciare un appello dai nostri microfoni, da Brussellando. Invitiamo tutti, che sono tanti gli editori, perché noi stessi riceviamo tantissime email da case editrici, quindi invito tutti coloro i quali, editori e case editrici in particolare, all'ascolto di Brussellando, perché come saprete noi siamo anche poi in onda sul podcast, quindi c'è la possibilità di riascoltarci, e a tutti coloro i quali sono all'ascolto, insomma, di avere anche un po' una relazione con chi scrive, perché poi nel momento in cui si scrive comunque si condividono delle emozioni, si condividono dei sentimenti, si condividono delle storie che proprio perché vanno condivise, insomma, magari andrebbero un attimo supportate diversamente. Però forse questo è un problema che affligge tanti scrittori, tanti vorrebbero essere pubblicati, e chissà che magari non possa nascere da qui a qualche anno un nuovo modo di fare editoria, anche perché internet e i nuovi strumenti di comunicazione stanno comunque trasformando anche gli strumenti di lettura. Ma insomma, noi ci auspichiamo comunque che questo tuo messaggio possa essere recepito positivamente. Bene, bene. Allora, invece, al di là del libro e al di là delle persone che magari ti hanno aiutato, saluti invece, riconoscimenti a qualche persona a te più cara, al di là insomma del libro, questa sera prima di salutarci? Ma sì, comunque poi a tutto l'entourage familiare, gente che poi ti aiuta, ti supporta anche quando poi sei lì a scrivere, hai bisogno di tranquillità, di stare concentrato, di non pensare ad altro, quindi sicuramente alla famiglia che ha contribuito appunto a far sì che poi uscissero questi due libri. Allora, quindi è bellissimo, però. Noi abbiamo avuto quindi questo primo cocktail qualche settimana fa. E cosa bolle in pentola? Quali sono i prossimi passi per promuovere e sponsorizzare Ti basterà morire? Ma ecco, ci sarà quindi una presentazione alla Piola Libri, stiamo discutendo adesso della data precisa, certamente intorno a fine gennaio, forse inizio febbraio, e poi ci saranno altre iniziative in Italia, ci sono presentazioni in Italia, qualche altro programma radiofonico, televisivo in Italia, e poi vedremo insomma come andrà. Qualcos'altro invece bolle in pentola per noi lettori? Ci avrei qualche idea, ma insomma sono soltanto... Mamma mia. La sto concependo solo adesso, quindi siamo ancora... Agli albori. Non è ancora matura l'idea, però sì, c'è qualcosa e spero... Siamo ancora a livello embrionale. Mamma mia, quanta cosa, cioè hai appena finito il libro. Il libro magari fra un po'. È incredibile che tu riesca a produrre, cioè, una creatività infinita. Sì, mi chiedo anch'io come funzioni, perché avendo poi un altro lavoro non è facile. Ma... Sì, è vero, però mi sto pensando se forse... magari al terzo libro riesci finalmente a far diventare questo l'unico lavoro, perché la qualità è molto alta, quindi insomma non ho alcun dubbio che l'altro lavoro sia altrettanto bravo, altrettanto professionale, però questo mi sembra incredibile, veramente molto bello. Allora, caro Luca, noi ti ringraziamo della squisita disponibilità e ovviamente siamo pronti a riascoltarti e facci sapere di quelle che saranno quindi le tue prossime tappe. E intanto tutti noi, quindi da Dani M Regia, Giorgio Lorani, da Fiordaliso e dalla sottoscritta, ti giungono i nostri migliori auguri di un ottimo Natale e un felice inizio del 2010. Grazie, altrettanto anche a voi, è stato un piacere. Altrettanto da parte nostra. È bellissimo, però io, siccome sempre dopo i saluti, io ho sempre una domanda finale per mettere in croce la gente, dico, ma in quanti hanno scritto questo libro, se vedo i ringraziamenti finali? No, sono solo quelli che l'hanno letto, poi ci tenevo a ringraziare un po' di persone, così, anche per altri motivi, non solo legati al libro. Si vede, credo che se fossi stato uno di loro sarei molto felice, perché sono veramente dei ringraziamenti particolari, non li ho mai visti scritti in questo modo, è la prima volta, in cui uno ringrazia proprio, credo, di interpretare l'atmosfera che c'è intorno, perché queste persone mi sembra che abbiano creato un'atmosfera dentro la quale è nato il libro. Sì, no, è vero. Poi ci sono anche parecchi ringraziamenti personali. Certo. Che ci tenevo a fare pubblicamente anche al di fuori del contesto del libro. Bene, allora ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, Luca Cozzani, Ti basterà morire, edito da Il Filo Albatros. È possibile acquistarlo online? Sì, è possibile acquistarlo online su vari siti, tra cui quello del Filo Albatros. A Bruxelles si trova la Piola Libri, e in Italia, insomma, in diverse librerie nelle città principali. Bene, quindi sulle tracce di Nuove Voci noi ringraziamo Luca e speriamo di averti nostro ospite prossimamente. Grazie a tutti voi. Buona serata. Buona serata. Ciao Luca. Ciao, grazie. Cold. And- eccoci nuovamente, Radio Alma, Bruxellando, siete in compagnia di Marie Di, Georges Laurent, Fiordaliso e Dani M. Prima di concedere la parola a Fiordaliso, quindi, e di ritrovare comunque lo spazio del Librangolo, non sono tanti in realtà gli eventi che avranno luogo a Bruxelles questa settimana e la prossima settimana. Un po' perché tutta una serie di cose di cui già abbiamo parlato avrà comunque luogo, quindi ci sono sempre in atto le plaisir d'hiver che riguardano tutta la zona della Grand Place. Ci sarà modo ancora di visitare fino al prossimo 2 gennaio i mercatini di Natale alla Grand Place. È un po' comunque in tutti i comuni della regione bruxelloise ci sarà la possibilità, insomma, di ritrovare degli avvenimenti riservati ai più grandi e ai più piccoli. Quindi noi questa sera abbiamo un po' concentrato l'attenzione su eventi un po' più caratteristici, come questo che è intitolato Il peggior regalo di Babbo Natale, che è al Museo d'Arte Fantastica. Immaginate che il Museo d'Arte Fantastica ha riservato una sorta di spedizione delle più insolite, con tanti mille regali terrificanti offerti dal più cattivo dei Babbo Natale. È una visita un po' singolare, quando tutti ci aspettiamo di ritrovare un presepe ben decorato e di trovare tanti bei regali, gli organizzatori delle Pire Cadeaux du Père Noël invece non la vedono così, concepiscono il Natale in maniera diversa. Quindi hanno decorato un presepe ricco di crani, un presepe dell'orrore potremmo dire, una visita dell'angoscia. Non ci sono canti di Natale, ma solamente grida abominevoli di animali e di mostri. Tuttavia non vi spaventate, perché il momento più sorprendente della serata sarà senza dubbio quando si aprirà il regalo, perché non sperate mica di partire a mani vuote. Per tutti i visitatori questo insolito Babbo Natale ha presentato una lista di regali. Con un po' di fortuna ripartirete tutti ricchi, con un po', insomma, di sfortuna invece ripartirete con un regalo sicuramente meno interessante, però tutti quanti saranno ricompensati. Quanti desiderassero avere maggiori informazioni, potete visitare il sito internet maisonbizarre.be e l'indirizzo è il Musée d'Art Fantastique de Bruxelles a Rue Américaine numero 7 a Saint-Gilles. Costa 6 euro. È aperto tutti i sabato e le domeniche dalle 2 alle 17, dal 5 dicembre fino al 27 dicembre. Quanti invece potessero in settimana, occorre prenotare e quindi chiamare allo 0475 41 29 18. E poi una cosa interessante è la Balade Gourmand a Bruxelles. Oh! Cioè la passeggiata golosa di Bruxelles. Che bello! Dove si svolge? E beh, insomma, da voi che si svolga. Intanto si svolge a Bruxelles. Intanto. Però, siccome appunto. Giorgio, non l'avrei mai detto, sai? È vero, infatti adesso. Pensavo a Mons, magari, sai? Mons, Namur. Balloni. Tournée, Courtrai. È molto carino. È molto bello. Anche piace anche a me. No, invece questa è a Bruxelles, perché la golosità fa parte da sempre della produzione di Bruxelles all'estero. È stata anche punita la golosità da qualcuno. Da chi? Non te lo posso dire. Non mi puoi dire? No. Da Dante Alighieri. Non vale così, dobbiamo giocare. Ma non è mica stato lui. E chi è stato? In coro. Fiordaliso, si è svegliato. Io ho un suggerimento. Vogliamo aiuti dalla regia. È stato Bruno Vespa. Non credo che sia stato Bruno Vespa. Chi è stato? Io suggerisco a Luca Cozzani di scriverne un libro, magari riesce a vedere lui una soluzione. L'aspetto il un titolo po' più... Pralina assassina, ragazzi. Allora, dopo la pallina assassina, la pallina assassina. Allora, al tempo delle kermesse di Bruegel, al tempo delle joyeuses entrées, al tempo dei fastosi banchetti della Belle Époque, dove semplicemente oggi in un ristorante che è seducente per l'ambiente e anche per il suo menù. Comunque, il visitatore ha sempre riconosciuto al brussellese l'arte del ben mangiare. E infatti adesso c'è un itinerario che riunisce tutti i buongustai, amatori d'arte per una storia sensuale, artistica ed economica. Scoprite la storia della gastronomia a Bruxelles e concedetevi un momento di piacere deliziosamente condiviso. Le degustazioni sono comprese nel prezzo. Dove? Allora, il rendezvous, l'appuntamento è all'Escalier au Lion dell'Hôtel de Ville, alla Grand Place a Bruxelles, ovviamente. Quindi, oh, incredibile, alle ore 14, sabato 19, fino alle 2, a piedi. Il prezzo per 13 euro, quindi per 13 euro ci sarà una bella camminata dove la gente potrà girare per questi ristoranti e poi cominciare a degustare per un semplice prezzo di 13 euro. Non ci dice quali ristoranti partecipano all'iniziativa. No, non ce lo dice, però se volete andare a vedere, internet www.itinerer.be oppure scrivete un'email a sophie@itinerer.be o se proprio siete così pigri telefonate al 02 541 03 77, oppure, anzi lo ripeto, 02 541 03 77. Non male. Già, attenzione, che è obbligatorio ovviamente prenotare, se no come fanno? Devo mangiare per 50, 100.000, 200.000, uno, nessuno e 100.000, ma come diceva Piero Gavazzi. No, non era proprio lui. Sono sbagliato. Ma, che non era dietro. Di idee brillanti, e se Cenerentola fosse stato un uomo? E se il principe azzurro fosse stata una donna? Ah beh, oh. Io l'ho sempre pensato che il principe azzurro fosse una donna. Ebbene, c'è qualcuno che crede che invece Cenerentola era un uomo così come il principe azzurro. Ah, ma tutti due uomini. Ciumbia. La corte ovviamente si rallegra di tutta questa gioiosa atmosfera in questo reame d'operetta. Ecco qui quindi che da queste due vicende che tanto hanno affascinato la nostra infanzia, c'è chi si diverte a riscrivere le storielle di fine anno, scritta par Sébastien Ministru, e ovviamente è un'opera effettivamente geniale, che insomma vuole rivedere in chiave ironica e moderna quelle che sono state alcune figure che in realtà hanno già le loro immagini, che probabilmente resterebbero tali da qui all'eternità. Ma siccome insomma l'arte è bella proprio perché può essere reinterpretata e perché la si può reinterpretare all'infinito, Cendrillon, c'est ma ciò, va non in onda perché è un'opera teatrale al Toisin d'Or dal 16 dicembre fino al 16 gennaio 2010. Il costo di entrata è di 25 euro per gli adulti, 20 per gli senior, 10 per gli studenti e les demandeurs d'emploi. Soffio, se alzi il braccio puoi toccarla, ti guarda immobile e dà un sorriso da bastarda, e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé, mentre io cerco te. E mi ero affezionata, mi sono incasinata. Parlami, parlami adesso, che io ti sento che non sei più lo stesso, che me ne frega di esserti amica. Mi sembra assurdo solo a pensarci, cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, e lo capisco dal tono diverso di voce con cui mi dici stasera da fare, non mi aspettare, e stami a partire da ieri. I mille sogni della gente che pensa a vivere mentre io penso. Alessandro Amoroso, una delle cantanti più ascoltate e apprezzate in Italia, Estranei a partire da ieri, una voce straordinaria, e noi siamo felicissimi qui a Radio Alma di poterne condividere con voi anche soltanto pochi minuti. Brava Alessandra, insomma ci voleva finalmente un po' una bella voce, insomma, che fosse in grado di uscire da quelle voci un po', insomma, ormai troppo note. Con questo, però devo dire che vi lascio la parola. La trasmissione di Amici, se non erro. Bravo, lei. La trasmissione di Amici è stata una bella cosa. Ogni tanto produce tutto delle cose interessanti. Tutto sommato, dai, insomma, sì. Vabbè, non voglio fare ulteriori commenti. mi rifiuto. Tutto sommato. Voglio ascoltare solo Fiordaliso. Produce delle belle cose. Di lettura, perché non ho finito i miei regali natalizi, quindi ho bisogno di qualche suggerimento. Librangolo. L'angolino. Librangolino. Ah, questa sera è Librangolino, non Librangolo. Sì. Ok, ho capito. Vabbè. Librangolino. Devo rifare la sigla? No, non D'accordo. Serve, dai. Prego. Allora, come suggerimento di regali, cioè, non lo so, se hai in famiglia o nella tua entourage qualcuno che abbia un gusto per letteratura leggermente lirica, però comunque analizzante, sì, se posso qualcuno dire. Qualcuno in famiglia che è molto analitica. Una mente analitica. Ma anche lirica, cioè lirico-analitica deve essere. Assolutamente, sì. Assolutamente. Un Bocelli matematico? Qualcosa del genere, anche se senza la matematica. E quindi è anche appassionato di viaggi, diciamo. Ah, questo ci sono io in famiglia che mamma ne guarda la bandiera. Vabbè. Allora vi posso raccomandare l'ultimo libro che ho finito, che si chiama Lei così amata di Mazzucco, Melania Mazzucco. Lei così amata. Lei così amata di Melania Mazzucco. Molto ed bene. È ovviamente un'autrice italiana, Melania. Infatti Mazzucco. È un'autrice italiana, anzi è già un'autrice abbastanza affermata, ha anche vinto il premio sì. Strega un paio di anni fa. E del suo libro Un giorno perfetto è stato anche tratto un film che aveva come regista Ferzan Özpetek. Come? Puoi ripetere piano piano, sì, perché ci perdiamo. Nome. Che aveva come regista sì. Ferzan Özpetek, cioè Özpetek, come piace a voi. Orzan invece come si legge? No, aspetta, com'è che si dovrebbe dire? Özpetek. Che non è turco. È turco. Le patacche. Turco, però di che origine è? Turco. Ah, turco. Come fai a sapere che si legge Özpetek? George è un turco manno. No, è turco, però come fai a sapere che si legge Özpetek? Perché fra la lingua turca e la lingua ungherese ci sono alcune affinità. Ah, pensavo te l'avesse detto lui. Sì, certo, personalmente. Özpetek. Allora, dopo che abbiamo saputo che si chiama Ferzan Özpetek e non Özpetek. Ma lui è un attore o un regista? Regista. Scusate. Ma come? In realtà è messa di fronte. No, scusate. Come? Lui gestisce un paio di kebab qua. Le fate ignorare. Scusate, io la mia memoria devo sempre. Mio Dio, ho visto entrambi. Oddio, cioè, la mia vita mi è passata di fronte agli occhi. Pensavo alla finestra a casa. Che io a un certo momento ho confuso con l'ultimo bacio in Muccino solo perché l'attore è lo stesso. Perché Ferzan a un certo punto un certo feeling con il protagonista. No, con il protagonista dell'ultimo bacio. Quindi è a feeling, è a corsi, no? Sì, esatto. Esatto. Quello del Max Chabon. Comunque, cioè, questo libro. Torniamo alle cose serie. Torniamo alle cose lirico-analitiche. Allora, e viaggiatrici. Quindi, questo libro si tratta della vita di Annemarie Schwarzenbach, che era una viaggiatrice, scrittrice più o meno del periodo della Seconda Guerra Mondiale, svizzera però. Però era una personaggio abbastanza speciale dal punto di vista che lei, già abbastanza giovane e da sola, ha fatto dei viaggi nell'Oriente e anche in Africa e ha svolto del lavoro giornalistico. E infatti è uno dei personaggi che ultimamente viene sempre più riscoperta. E questo libro non descrive semplicemente i suoi viaggi e piuttosto descrive il suo viaggio interno, perché lei aveva un'infanzia difficile, una giovinezza difficile, e di conseguenza c'era un lungo periodo in cui lei non stava soltanto cercando una meta di viaggio, ma stava anche cercando un po' se stessa dentro questo mondo, e si perdeva apposta per trovarsi. Aspetta, questo è interessante. Viaggio è come cercarsi e poi perdersi apposta per ritrovarsi. Esatto. Interessante la metafora. Potremmo svilupparne, sì. Visto che il viaggio è il nostro. Forse dovremmo invitare Melania Mazzucco a dire, visto che parliamo di viaggio. Sì, dobbiamo provarci. State attenti, state sintonizzati su Radio Alma 101.9, perché prima o poi avremo Melania Mazzucco che ci parlerà di concetti di viaggio. È importante. Se no chiamiamo ospite, scusa. Beh, lì la vedo un po' più difficile. Qualcuno di voi parla turco? Sì, sì, non c'è lui problema. Lui parla italiano senza parla problemi. Parla perfettamente. Anzi. Va bene, va bene, va bene. È una bella metafora, mi è piaciuto molto. Perdersi per ritrovarsi. E infatti lei alla fine si ritrova, dopo tante difficoltà, infatti, di tentativi di suicidio, cioè c'è di tutto proprio, cioè una vita in subbuglio. E alla fine si ritrova in Africa. In Africa? Sì, in Africa c'è un certo momento in cui lei si unisce con il mondo e se ne sente parte e raggiunge un momento di, possiamo dire anche illuminazione, in cui lei non ha più bisogno di niente e nessuno in un certo senso, ma allo stesso tempo si libera completamente. Una cosa che lei cercava sempre, che è la libertà, la ritrova in modo abbastanza strano, diciamo, però se la ritrova. Purtroppo è morta abbastanza giovane, quindi dopo essersi liberato purtroppo non aveva tanto tempo per sfruttare questa sua libertà nuovamente acquisita. Comunque, era un personaggio realmente vissuto? Sì, assolutamente. Quindi Melania Mazzucco narra la storia vera di questa? È la storia vera di questo, ma ovviamente ci sono tante interpretazioni, perché certo. Non è ovviamente, cioè davvero è un po' analitico dal punto di vista della psicologia, del contenuto diciamo certo. Anche psicologico interno, ma anche molto lirico in questo tentativo di esplorare questa ricerca per sé, questo perdersi per cercarsi, ritrovarsi. Che proprio è difficile da leggere a volte, però è bello, proprio bello, ben fatto, è straordinario anche. Però mi viene in mente, visto che parla di Africa, un altro libro che direi che è un po' vecchiotto, insomma non è una novità di quest'anno, però che sto leggendo ultimamente, che è Richard Kapuscinski, o Kapuscinski. Ah, Richard, già ne avevamo parlato. Ebano, sì, di Richard Kapuscinski, però ne avevamo parlato di Ebano, che è un suo libro reportage, racconta le storie. Quello che ha vissuto, una storia di personaggi che ha incontrato in Africa, ed è, devo dire, molto bello, anche crudo. Sono delle storie che rimangono appese, ogni capitolo è un personaggio diverso, è un'avventura, un momento, una serie di fotogrammi della sua vita, e molto spesso rimangono così, proprio come immagini, quasi come il capitolo fosse la descrizione più che di un momento, proprio la descrizione di un personaggio, che rimane poi alla fine sospeso. Non c'è un inizio e una fine, sono degli affreschi su dei personaggi sull'Africa, a me piace molto. Un po' come Calvino, una sera d'inverno, un viaggiatore. Un po' come Calvino, una sera d'inverno, un viaggiatore. Molto bene. Perché è straordinario, insomma, per quanti non l'avessero letto ve lo consiglio, perché sì, effettivamente è una lettura totalmente diversa dalle solite. Beh, insomma, è un grande. Poi Calvino, insomma, è un non maestro. Non per nulla grande. E però è lui che ha tradotto un altro grandissimo, che ha scritto I fiori blu, Zazie nel métro, e che per qualcuno invece come me, che è affascinato da questo personaggio, questo artista, sono gli esercizi di stile. Ah, è un francese lui? Di Raymond Queneau. Raymond Queneau, sa che l'ho letto? Che fa anche molto. In italiano, però. In italiano. Ecco, in italiano. No, però credo che gli esercizi di stile non siano stati tradotti da Calvino, ma da Umberto Eco. Ah, ok. Ma perché io l'ho letto in italiano, esercizi di stile. Oh, siamo sotto Natale. Che libro mettereste sotto l'albero di Natale? Ah, io, come regalo? Io l'ho appena detto, cioè io. Cioè, Ebano. Minchino. George Ebano. Imola? Sì, anche. Però non dimenticate, allora, se sono giovani Zazie nel métro, se sono un po' più così divertiti ma anche interessati alla lettura, I fiori blu non è male, e se invece proprio siete dei fanatici, gli esercizi di stile sono fantastici, 99 modi per dire la stessa identica cosa, 5 righe scritte in 99 modi diversi, ma ovviamente non cambiando le lettere, proprio cambiando, come so, tecnico, l'idraulico che parla di questa cosa qua, il poliziotto come lo vede, bellissimo, bellissimo, e mi fa molta rabbia perché come Luca Cozzani, che anche lui mi fa molta rabbia, lo dico, Luca, se ci stai sentendo te lo dico, cioè come uno che come Raymond Queneau era un ingegnere e invece Luca fa tutt'altro lavoro, però quando si parla di scrittura bisogna inchinarsi. Io invece consiglio di leggere Luca, è l'ultimo libro che ho letto, ne inizierò un altro proprio questa sera, quindi insomma magari la settimana prossima potrò suggerirvi altre letture, però intanto effettivamente vi consiglio Ti basterà morire di Luca, perché se vi piace il thriller, se vi piace l'avventura, se vi piace per un attimo sognare di spiagge esotiche e di tante altre cose, allora Ti basterà morire e la lettura proprio adatta a voi. Che bello. Sì. Comunque ne puoi leggere solo due di Luca per il momento. Sì, per quanti non avessero letto il primo, allora Il macellaio dalle mani di seta. Fra che ugualmente molto, merita, sì. Ugualmente merita. Consigli, visto che li avete tutti e due, consigli di seguire un ordine cronologico? Assolutamente no. No, sono due storie indipendenti, separate, l'una diversa dalle altre, quindi delle due forse è meglio leggere prima Il macellaio dalle mani di seta e poi Ti basterà morire per apprezzare quello che è stato poi il miglioramento stilistico e di Luca, ecco, però nient'altro. Però il primo amore non si dimentica mai, questo va detto, quindi per lui in questo caso il secondo amore va meglio ancora, è più maturo, più maturo, ma forse c'è meno energia. Beh, se non ci fosse stato il primo amore non avrei scoperto del secondo, quindi. Questo è vero. Fiordaliso, tu cosa ci proponi oltre a quello di Melania Mazzucco? Ma posso anche proporvi, già che sono in vena di Melania Mazzucco, vi posso proporre un altro suo libro che si intitola La lunga attesa dell'angelo. È bellissimo proprio. Cioè, si tratta della... Abbiamo capito. Dello scorso anno, no? Sì, è dello scorso anno. Ci pare di capire che a te piace Melania Mazzucco. Sì, è brava, è brava anche dal punto di vista che ogni suo libro è un po' diverso dal primo. Cioè non c'è uno stile generale per cui tu dici come da Dan Brown. Da Dan Brown sappiamo esattamente cosa aspettarci ogni volta. Ma lui è un americano, scusami, con tutto il rispetto per gli americani. Esatto, sì, però mette la fantasia, lo stile italiano. Adesso nel mio piccolissimo ho spaventato 10 persone circa 2 anni fa parlando di Dan Brown, perché ho usato la tecnica di Dan Brown per creare della suspense, dei dubbi, del mistero sul testo di una direttiva. Ho preso il testo di una direttiva e ho cominciato a, con la costruzione di Dan Brown, a chiedere perché questo articolo, che poi guarda dall'altra parte cosa succede. E perché nell'economia generale c'è questo e questo? E in quel momento c'era un governo che ha fatto qualcosa. Giorgio. L'ho spuntata, sono rimasto un po' con la bocca aperta. Avrei voluto vedere, guarda. Si sono veramente chiesti: ma porca miseria, ma c'è veramente questo collegamento? Invece no, era tutto inventato. Però insomma, ecco, il piacere, beh, come tu dici sei tu. Un avvocato. Dan Brown, sì, però Dan Brown. La mia arringa. Dan Brown ha una struttura. La sua arringa. Sì. Che si era mangiato la sera prima, che gli ha fatto pensare queste cose. Mi ha fatto male allo stomaco. Anche se secondo me il maestro di questo tipo di creare dei dubbi o creare delle storie false, che però prendono poi il luogo della verità perché sembrano così plausibili, è secondo me comunque Umberto Eco con il suo Pendolo di Foucault, che là riscrivono la storia. Ma è credibile, cioè si mettono delle domande o delle connessioni che possono essere stati veri, ma quello non vuol dire che sono stati veri. Ma è inverosimile. Cioè, e comunque è questa verità, cioè, creata, alla fine diventa verità perché c'è altra gente che ci crede. E a quel punto ci sono dei problemi. Il falso storico che tanto insomma piace. Falso storico è The Inglourious Basterds. Ne parlano tutti molto bene, sai? Beh, insomma, è divertente questa cosa appunto della ricostruzione storica, un falso storico, però una via diversa, una possibile così fine del regime di Hitler, regime nazista, insomma, non male. L'idea non era male. L'idea effettivamente non era male. Allora, noi siamo, ahimè, agli sgoccioli anche di questa bellissima puntata di Brussellando. Noi ovviamente ringraziamo tutti coloro i quali hanno avuto la bontà di ascoltarci anche questa sera, tutti coloro i quali invece ci ascolteranno da domani o non appena insomma il nostro podcast sarà disponibile. Daniel, ci ricordi l'indirizzo del blog? Sì, è brussellando.blogspot.com. Oh oh. Noi ringraziamo Luca che è stato con noi al telefono, Luca Cozzani e George Imola. Noi intanto vi salutiamo, vi salutiamo. Buon Natale e buon anno. E poi magari, chissà. Chissà. Insomma, lasciamoci con una bella sorpresa natalizia. Buona serata a tutti e saluti natalizi da tutti noi. Buonasera. Ciao. Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.